direi che il danno praticamente sarebbe nullo. Potessimo avere solo un presidente grullo. Invece è peggio che andar di notte a luci spente. Trovarsi un grillo per ogni grullo presidente. Per ogni popolo che ha perduto la memoria. C'è un grullo presidente che passerà la storia. Alle Olimpiadi dispara la grossa e alza la voce. Fatti i cazzi tua e mastica veloce. La gara d'arrampicata sugli specchi è violente. Ma fa curriculum per ogni grullo presidente. Ma il gesto atletico che in assoluto mostra il suo valore è il salto sopra il carro del nuovo vincitore. Hey! Di grullo in grullo. Hey! Di grullo in grillo. Hey! Di grullo in grullo. Hey! Di grullo in grillo. Hey! Di grullo in grullo. Hey! Di grullo in grillo. Hey! Di grullo in grullo. Hey! Di grullo in grillo. Avanzano pure gli anni, spacciando per successi anche i peggiori danni. Le colpe sono attribuite a un'eredità del passato, e i meriti invece se li accaparra il nuovo arrivato. Per ogni popolo che coltiva la discordia, c'è un grullo presidente che fa sogni di gloria. Hey, di grullo in grullo. Hey, di grullo in grillo. Hey, di grullo in grullo. Hey, di grullo in grillo. Hey, di grullo in grullo. Hey, di grullo in grillo. Hey, di grullo in grullo. Hey, di grullo in grillo. Più a lungo di tutti è bene far fuori gli amici e i nemici, tenerseli stretti. È cambiato poco dai tempi gloriosi del pane circensis. Far cadere monete dall'alto da sempre fa tutti contenti. È un circolo magico che ha superato ormai tutti gli eccessi. Ma come troncarlo per poterli salvare da loro stessi? Hey, di grullo in grullo.